siamo Arezzi e Anguilli. Che ragazzo. Zarella, mi cado già. Guarda. Zarella. Anguilli e Camaretti. Ma non so cosa mettono là. Questi uomini di cioccolato da buonare. Noi andavamo, ci rimangevamo e poi riempivamo la cassa per lasciare la forma. Possiamo mangiare un cacca ci ha fatto il maturo, quindi si passa la palla o no? Con le sorelle pregaia e va bene, è stata con riso, però che abbiamo fatto lo scherzo sorella quando veniva il ragazzo a comprare le patatine con i pacchi grandi e siamo arrivati io e Liliana quando eravamo fidanzati ancora prima, però per le patatine ce le abbiamo mangiate, le abbiamo riempito la busta e poi le abbiamo messo una carta di adesivo per chiudere il pacco. Quindi sono qui bastardi, ci hanno mangiato, non mi piccata l'era. Mi fa ricordare il fatto del poco delle patatine, è più tipo ciò di casa, visto che è quella di casa. Prendo la busta delle patatine, me ne ha di lui, ha messo l'acqua dentro, l'ha chiamata con questo tipo Agostino, quello che abita, non si abita ancora lì, lì è stato di San Francesco, non me lo matto. Ciao da Agostino, hai due patatine, dammi un paio. Il 4 facevo 10 edicole, mi sembra, 12 edicole. Entravo alle 4, tra caricare tutto ci facciamo le quasi le 5, fa tipo alle 7 a casa, mi dava 35.000 lire. Al giorno. Ogni volta consegnavo. La sassa lì. Via. Una volta ho tirato la macchina, ragazzi, mi si è perdere acqua questa macchina per andare. L'ho telefonato, guarda, mi si è fermata la macchina in via lì, di fronte ai vigili del fuoco. Cazzo, è stracciato, no, sta andando piano, ma che? L'ho stracciata a morte la macchina, perché come scaldava iniziava a perdere acqua. E meno male che le dico anche c'era con un bidone d'acqua, ma ha dato lui il bidone dell'acqua, se no un casino sarebbe stato. E poi niente, mi ha chiamato per 2 settimane circa. E poi mi ha mandato a casa. E tramite questo tipo che lavorava dentro, siccome lui faceva le giornate dentro, dava i cambi, no? Cioè lo faceva lui. E non mi ha più chiamato. E ha chiamato il nipote. Ma sicuramente c'è un nipote che fa le consegne. Sì, è stato prima per la famiglia, normale. No, io devo dire queste cose, però quando arrivi io una persona per prendere un'altra. Sì, vabbè. Però mi ha chiamato questo tipo Antonio, che lavora lì alla Sardegna, c'è tanti anni. E mi ha detto se volevo andare, io devo come no? Pronti. Alle 4 già, mi andavo alle 3:30, alle 4 lì. E facevo il mio giretto. Alle 7 rientravo. Mi dava, come ho detto, 35 euro, ma 35.000 lire. Andavano bene, meglio di niente. Tu considera che a noi per scaricare un contatore ce l'avevo 50 attese. Ma c'è portante? Ma la passo già. Sì. Angelino! Ma vai da me, attaccato qua. Luca! È un attaccato qua, va. Per carità, guarda. Per carità, no, non ci fa niente, già lo sai, no? Siamo vicini di casa, cappa! Angeli! Ehi, cappa, dai, scusate che sono seduto dietro, no? E quindi il microfono vi è male andare a guardarlo. E comunque, dai, buonasera Claudio, buonasera... Gianni Doppio Room, poi non so chi altro c'è. Cioè, vabbè, c'è anche Antonio, non lo so. Lì la verità si è innamorato della station di Claudio, no? Lì la verità. Io? No. Eia! Mi chiama. E chi è che si è innamorato della station di Claudio? Angelino. Positivo. Te gusta, ti gusta. Gaba gaba, Claudio, comunque quella cosa lì l'ho guardata in internet, è una bella bestiolina. Ciao Angeli, buonasera, ben ascoltato. Le bestioline le usiamo per le persone monelle, per il resto le lasciamo stare tranquille dove sono. Attaccato a me, non passo bla. Chi c'è che sta mettendo portante? Un capo di bufalo, dove va Pirotti, che vuoi che sia? Aspetta che andiamo a cercarlo. Vai a cercarlo, vai, metti un chilo di pomodoro e stai a porta. E cosa cerchi? Se vai a cercarlo non lo trovi di quanto è piccolo. Guarda dove sei, no, guarda ti segnali, no. Io ci ho guardato prima di te, mi chiamavo tu. Ma infatti sei visto quando sei andato a fare gli altri, allora per le pesce guarda ti segnale. E a chi non vedrai di lugnare, no? Ci hai abitato dei vecchi anni. Lugnare ciò, non scaricare, proprio si vuole, non ho capito niente, tu parli, ma non hai capito niente. Sei a comprendere tu, sì, infatti, caro vecchio quanto sia all'altezza. Bravo, sì, sei proprio bravo. Bravo è molto. Bravo è molto. Ma secondo quale sono c'è l'importante, chissà perché. Luca! Ehi! Ma questo Antonio chi è che non ho capito? Antonio, bombolo! ascolti. Bombola. Non ascolto bene. Sto bombola. Buonasera Antonio, bombola, dai. A Genio, questa, se mi ascolti. Angelino, ciao Nadia, ciao Stella Combriccola. Angelino, mi sa che tu ti stai distraendo dietro con Nadia, altro che ciò, che la tua vuoi scusa. Ehi, ehi, ma che sei l'ovvio, ma cosa c'hai di sua? Qualche antenna, qualche parabolica che mi vede? Ma se passa il microfono a Nadia, faccio salutare la Nadia, eh? Molto maleducato, non c'è altro. Cazzo, perché siete fa vedendo il zinco? Il zinco usiamo, no, siamo in tre, non in cinque. Siete sempre popolati. Ma con chi? Non lo so, boh. Comunque Gianni, mi vuole dire qualcosa, cambio. Gianni, non fare la mano veloce, cavolo. Guarda, ti taglio il microfono, mi capo e ti lascio il suono della spirale. E poi parli con muro. No, stai sbagliando tutto. La mano veloce l'ha avuta più perché sta parlando con Angelino che mi ha parlato sopra. No, io non ti ho detto, passa il microfono a Nadia, ci fa salutare da lì, ma ci fa la porta in tu, o la tramite. Oh già. Sei distaccato, sì? No. Io la vedo. C'è stati, Luca ti ha niente. Attaccato non si capisce niente. Ciao a tutti, eh! Bellissima! Come state? Tutto bene? Tutto bene, Nadia, qua senza soldini, ma tutto sommato va bene, dai. Sempre spiantato sei, Lu? Sempre spiantato, come una pianta. Ciao Gianni, ciao Claudio. Ciao Nadia, ciao, mi sentite? Là. Sono shopping, speriamo che anche voi non abbiate il morbo da shopping come tutte le donne. No, no, ma come fate a sapere prima che c'ero anch'io? Beh, ti ho detto il tuo 25. Ah, ma tu l'hai detto che? Ah, ecco, ho capito, dai. Però grazie per averci dato gli auguri, i saluti, eh. Gamba, gamba, dov'è? Angeli, allora. Raccontare cosa bella te andava. Avanti il soframo d'oreggio, mi Gianni. Mi pare il balcone, mi pare. Mudo. Ciao Nadia, buonasera, ben sentita. Ciao Claudio, ben sentito anche a te, tutto bene? Tutto bene. Avanti Gianni, sempre va vedendo, sì. Rilassati. Ho mangiato un po' di grammofono stamattina. Bravo, guarda. Parlate voi, c'è anche Pierpaolo. Io ci sono. Bravo, scusa Bobo, Antonio Bobo. Ecco che veloce Gianni. No, dai Gianni di tuo veloce. Poi maggiore vaccinante, luci cigaglia. Ciao Bombola. Mira, ciao Claudio. Ah, conoscete a Claudio tu? Sì, però non l'ho visto qua. Purtroppo. Non ho ricordato. Cos'hai detto tu? Purtroppo. Ti ho visto, ma non sono subito ricordato. Purtroppo. Questo è purtroppo, Ah, conosci già la prima. Ehi, me lo so subito ricordato, come l'ho visto. E non veniva il negozio da noi. Non lavorava la macchina lì via Armando Diaz, quando lavoravo con i miei soci in via Strum. No, veramente andavo in viaggio e non stavo fare la macchina. Cos'è? Io mi sento su Luca, Luca, si titola. No, no, no, perché tu sei dito veloce, no? Hai calpestato come ho fatto. Hai detto tu, scusate, l'hai sentito tu. No, no, no, ma fate in tempo a sentirlo. Oh, Lu, ma il suo CD che mi hai dato cos'è? Gelattaio? E allora? Come è l'ingrediente gelato? Quello è pasticceria Portollella. Maria, grazie. Noi gelati c'è mai niente, bobo. Simulazione è quello. Non va male, ma prima di fare l'azione ci mangiano tutti i gelati, non li vado a male. Dio Maria, gara. A mo c'è uno qua, già ti pare già nel più rumo mangiare il gelato. Mi ammazzo. E io non mangio un freddo, non mangio il gara. No, dice CD mi ha dato Luca, ma ha dato un CD e boh, registrato. C'è una gara di anguria e di gelati. Uno è fatto in anguria e l'altro mangia di gelati. Giù giù. È un film di guerra e pace, dai, ci abbiamo capito. Ma che reazione già? Siamo un culi. Ma i culi forti, c'è una culietta. Ma due è una coppia, no, che picchiamo un bel. Iniziamo a mangiare, poi vanno a rompere le scatole, iniziamo a picchiare, a picchiare. Girato in una gelateria, bello, bello, bello, è molto guardando. Siamo già in 30, Angeli, siamo già in 30, mi. E beh, a Mubina, Angeli, a Mubina. Mubina, Mubina. Attenzione, mi, che schierreggia. Attento, Mubina. Capito, Angeli? Capo, aeroporto militare, già l'ho sentito, dai. Buongiorno. Assurdi, no? Ma lo vedevo di Giacomo, Marchisio. Marchisio è poco. Marchisio è nipote di Giacomo, Gianni, non ti dormi, Io sono abbastanza sveglio. Perché mi svegli, Luca? Sveglio, sì, sveglio. Sveglio, sveglio. Sveglio, sveglio. No. Sveglio, S-V-V. No, già. Eh? Io ho già detto la salute. Non mi ricordo più. Quando mi stavo addormentando. Sì. Boh, adesso un bel cazzo, ma non me ne ricordo. Ha lanciato un microfono, cosa, via Paolo era detto, e adesso mi giuro le stazionali e poi già lo pulisco quanto ne ho. C'è dormito, non avevo già più. Quale? Ce n'hanno fatto uno una ben chiaro, chi è? Angelo di Cernata. Aspetta, chi è? Avanti forte e chiaro. Forte e chiaro. Chi era? Tua figlia era? Tu, no, tu. Luca. Sei a? Ascolta, ma non ti ha parato la mia voce, diversa, eh? Ehi, ehi, ma già si capisce, cioè già si sente che è la tua, dai. Senti il Borghese, che è Angela, ma Angela c'è la mamma. Chi ha parlato, Patrizia o Nadia? Ciao Luca. Chi è? Chi è avanti? Monica. Monica chi? Mia sorella. Ah, ciao Monica. Quanto è chiaro qua? Caldo, caldo, la voce calda, calda, calda, la frequenza. Serve in goli che c'è un'antenna, ti faccio la cravatta. Gianni, no, questo non si fa. Aspetta Gianni, aspetta, ma perché te ne scenda, in terra pure. Aspetta che c'è la Monica, avanti Monica. Mia sorella era. Ah, tua sorella era, cappa, saluta la parte mia. Va bene, va bene. Sonno gatto, via! Urgia! Forse non aspetta che scenda! Qua, qua siamo! Ehi, questo è di cazzo! Buona! Tappa, forte e chiaro qua! Sperando che tu mi ascolti in quelle ferre! Oh, Luca, ma questo è Anglona! 8 vie ci sono, tutti uguali! Cappa, sono tutti uguali! Allora, sono una... Allora, aspetta, una, due, tre, quattro, cinque, sei vie sono qua. Poi c'è la via di, che scende giù, in via, va, in via, sempre via Anglona, Sono praticamente tre, sette vie. Ma adesso stavamo guardando, non ci avevo fatto caso l'altra volta, no? Già stiamo vedendo l'antenna, Angeli, io come ti avvio? Bene, bene, forte e chiaro! Forte e chiaro? Bomboletta lui. Oh, ma non c'è nessuno. Se prendo io mi sguidano, non posso più parlare. Yeah. infatti c'è Bobone che sta chiamando. Bobo, cosa ti stai fumando? L'erba di... Malla agricola. Vai, casami. Aspetta, dai, metti in moto l'elicottero, non ce l'ho sopra il tetto, scendo un attimino, dai. Ma che fai? Oh. Ah, stai fatto. Tanto male lo intendi. Vai, dove c'è la macchina? Allora avevo ragione io che lui era grosso, ma visto che tu gli hai dato il bullone per fare l'impianto elettrico a Guido, qui a Dio, che ci mette valori o chimico, non so che cosa. No, già, perché lo ha vinto, già. E c'è, siamo già a Luigi, abbiamo preso un caffè e niente, cosa? Che è fatto a Luca a lui. Ehi, ehi, ehi. Come si immagina da Luigi che non avevi vinto? No. C'era scritto chiuso per ferie. Ci ha fatto entrare così a vedere un po'. Anzi, stava più o meno fuori. Ecco perché. Era chiuso per ferie. Riapre il 1 gennaio 2008. Sto prendendo io, non già. Sto prendendo nessuno, siamo tutti in Ramadan. Ovvero che ti sia dietro. Dimmi. Stasera, oh ma Marco ci mi paghi io stasera, stasera riposo, tutto a riposo qua a casa, a cappa. Oh Angelino! Non c'è, sono Patrizia! Ciao Patrizia, anche a te, fate chiaro qua, io la grande faccio meglio! Come state? Beh, noi stiamo sempre bene, sempre, ascolta, non è che vi perdete no, lì in quelle zone, no, quelle viuzze, no? Ci perdiamo, no, che devo andare a lavoro io. Ma ci avete il coso, il Tom Tom? E io ci sono, Luca, come Tom Tom. Ah, tu già sì, è vero, tu stai sempre qua, no, macchina è qua, macchina è là. Io me la rubai la moto, il CBR 3000, cioè. Oh, modificato hai. No, gli ho messo il coso, l'aratro dietro. Ah, volto orecchio. L'aratro volto orecchio. E allora? Le mattonelle, il coso, l'alluminio. Ehi, no, guarda, per tanto di non problema a girare, io già... No, è la pena. Shoot. lavorato troppo. Ciao, dove mia? Ma la faccia da lui già prende quella roba? Va bene, va bene. Quello è! Cazzo, mi arrivi tanto a rotto! Radio 29! Ma va bene, tu ti ascolto bene, va bene, va la radio. Ci vorrebbe lì un amplificato, ma quel... io ho visto il microfono sopra. C'è scritto 25 watt, ma di cosa? Perché lo spinotto esce 25 watt. Comunque vabbè, qua c'è anche Angelino in compagnia di Giovanni e le loro 25. Vai Giovanni. Ciao, non l'ho sento però, dove si trova? Lui si trova a Ottava. No, non lo trovo, poi ha detto che sto uscendo da stanza, che magari riesco a prenderlo qua alla salita dopo un po' Forama. Forama? Stai rientrando in Anghero? Capo, positivo, no, devo andare al lavoro, Patrizia, quindi devo giustare. Solo ti picchia dopo. Sì, il principale ti picchia. Come? Il principale ti picchia se non l'accompagno. No, forse ti picchia lì a te, se lo fai in fretta. Ci mancherebbe, è la tua 50, ti può anche picchiare. E vabbè, ogni tanto te li faccio picchiare, dai. Ogni tanto, andiamo in guasta. Se tu prendi l'angelino, sta sempre prendendo colpi da radia. Allora, c'è per culindi, Sempre i cudendi, non i culindi, i cudendi. I cudendi? Eia. Perfetto. Però voi parlate subito a... Cioè, più o meno capite il sassarese. Ma l'inglese, cavolo, è difficile, No, aspetta un attimo. Parliamo di me, perché non lo vuole imparare nessuno il sassarese. Ma Angelino già qualcosa già l'ha maledetto. Io? Angelino. Io non lo so, sono gli altri che... Giovanni, Bruno, non lo so, non l'ho mai sentito parlare. Ma tu qualcosa già la dici, dai. L'inglese nulla, non ci capisco una mazza io. Adesso per esempio Lupaldà, non mi ricordo cosa era. Quello te che già lo sai che cos'è Lupaldà, dai, io ti dico la parola stesso. Lupaldà, sapere? Mario Tucca! Cosa ne so, bro? Sapere Lucul, così è. Lupaldà c'è la Margherita. Dai, boh, sai no? Sì, hai io. Piccolino, è cominciato a mettere la ghiera, ah, c'è un cane, mi sei vergognato veramente. Sì. già aperti. Inter, non ce n'è per me. adesso, io sono anti Juventino, vedi, capisco male la Roma, non me ne frega niente, il Milan, ma la Juventus non la posso vedere. Ma gappa, viva le donne, contro i Zoma, donne piccicla. Oscillante 7, 8, ma la radio è molto bassa, 2, 1, 2. Ma tu mi ascolti a me? Eh? E la mia qua posso aumentare, vabbè, stai il microfono basso, c'ho qua, aspetta, che cavolo, che cavolo. Guarda che c'avevo il microfono a 3, adesso ho aumentato, te l'ho messo a 7, gappa. Tutto qua, troppo. Guarda, 116 sono, non c'è bisogno di farlo. Qui hai lavorato quasi 16 ore al giorno. Ma poi se mette volte la calcolatrice vedi. 300, 1003, 1000, quanto hai detto? 1003 diviso 316. Però faccio 300 ore diviso 316. Hai sballato Salvatore, è impossibile. 14 ore. Dammi da me. Dammi da. Dice in pratica, buh, e beh, c'è giù. Non mi fa. Non tocca. E io, oggi sono malattia. Diviso, è 300, diviso. Aspetta, 300, quindi, fanculo, 15 giorni, uguale, 40, 4.12, 4 ore e 12 minuti. E allora giudico male, che non vedo, pure a me mi dava 14, forse era 4.1, tagliallisco. Cazzo, lui sta perdendo, 2 a 1. Vediamo un po', la torcia sarà 0, sempre prima, 30 punti. Cos'è la nuvola c'è qua? Oddio, il 4.30 com'è rispetto al 4.40? Cosa? 4.30 com'è rispetto al 4.40? Non c'è niente. Là. Ah, lui sta facendo 2-0. La nuvola ci ha preso 3-0. Non c'è niente com'è? No, non c'è niente, Giovanni, c'è automemoria, non c'è niente, non c'è tastiera, non c'è nulla. È un buon ricevitore, ma non c'è niente rispetto al 440. Sì, vabbè, era solo una semplice curiosità. No, è una tagluba. Non ha niente a che fare, per dire, neanche col 72C della ICO. 140, è inferiore a 140 al 430, è un buon ricevitore, ma per il resto non c'è niente. Genova, Siena, 02. Genova sta il bar, Genova sta perdendo 2-0 con Siena. Ciao, Torelli, quanto è salito? Torelli! 50. Manco 50 watt d'ingresso, ce n'erano 100 d'ingresso, gli altri 400, e quindi alta. si ricorda, non so dove l'ha messo, quelle aprile, più preferite, non c'è, non c'è nessuna parte, non riesco a farlo partire. È archivio. Io ho il tuo archivio, vedi? Oh? Eia! C'è, sette. Sette è radio più forte però. Eia, più comprensibile, eh. Chiaro.